Se, in un giorno qualunque. In un giorno qualunque, tutto e niente. In un giorno qualunque, la vita di sempre. In un giorno qualunque, ogni uomo un agente. Perché in un giorno qualunque, la para si sente. In un giorno qualunque, tutto e niente. In un giorno qualunque, la vita di sempre. In un giorno qualunque, ogni uomo un agente. Perché in un giorno qualunque, la para ti prende. In sto giorno qualunque, ogni rima è bollente. Non mi reggo in piedi, chiama un assistente. In un giorno qualunque, ogni confidente è un infame di merda, un fottuto serpente. Faccio continuamente gli sbagli di sempre, come da adolescente impulsivamente. In un giorno qualunque rilasso la mente, dopo alzo voce e mani in mezzo alla gente. Sarà che cambi umore molto facilmente, quindi un giorno qualunque diventa importante. Ad esempio, se una tipa mi prende, ammazzo il ragazzo e divento latitante. In un giorno qualunque è scoppiata una guerra. In un giorno qualunque mi faccio la serra. In un giorno qualunque è tutto un peso, ma non c'è giorno che mi sia arreso, quindi se bella T-Mess, liposolubili nel posto. Era un giorno qualunque, il giorno in cui sono nato. Sputato da un utero, lavato e asciugato. Buttato in un mondo che sa di monnezza, con un milione di dubbi e nessuna certezza. Poi quando cresci arrivi al dunque. La vita è fatta di giorni qualunque, che oscillano sempre tra il bello e il brutto. Giorni qualunque in cui può succedere di tutto. Giorni allegri, giorni contenti. Giorni che pazzi a stringere i denti. Giorni di rabbia, giorni di sfiga. Giorni in cui freni la tua voglia omicida. Poi di tutto il resto non sono sicuro, l'aspetto l'incognita del nostro futuro. Infatti l'unica cosa che so, che sarà un giorno qualunque, il giorno in cui morirò.